No, mi fai invece oh, che strano. Oh, la batteria che andando via. Ma come è andato, papà? Ah, cosa c'è, Gabriele? Abbassa l'amplificazione un po', Antu. Forse sei troppo amplificato e ti sta facendo effetto camera, è quello lì. Ti sta risuonando la camera, abbassa appena l'amplificazione, Antu. Guarda che se fa meglio così. Lascia portante bianca e poi riprendi tiro. Zitto! Ce l'ha leggero. Senti, io lo sento. Ma io sono... lasciatemi perdere a me, che c'è l'orecchio fini. No, non è l'orecchio fine, non è l'orecchio fine, è l'orecchio giusto. Niente, va bene. No, ma anche io l'ho sentito alzato appena il coso, l'ho sentito. Però non dà fastidio, dai. Però non dà fastidio. E quindi Antu, quasi convenendi. Lavorando con Titti, a capo ha fatto un capodanno. Ah. Già lo sai con chi. Non passa le voci che sto parlando. Canta mia voce a chiso. Lavoricchiando, non c'è tutto questo grande lavoro in questo periodo, però si tira avanti. Sì, vabbè, l'importante è fare qualcosa, Antu, poi tra un po' già inizia tutto, come mi ascolti di radio, Antu, mi ascolti bene? Una bomba, Gabri, una bomba. E satura, arriva bene, cosa c'ha di difetto? Come mi va bene? Quindi è forte, comprensibile, chiara? Abbastanza. Sto ascoltando con la colonna interna, non con quella sua. Sì, no, ma sto dicendo perché, dai. Scusate, so già che è buona perché mi ha fatto i controlli mister Fratellottino, però dai, tu che sei più o meno in quel circondario, volevo capire se anche da te era buona. Sì, va benissimo. Ripeto, c'ho la colonna esterna, quindi abbastanza, secondo me più di quella la fedeltà non te la può dare, perché la colonna esterna è molto meglio di quella del baracchino, perché a volte è un po' schiddina quella del baracchino. Sento bene, va bene. Sì, va bene così, grazie Antonio, grazie. Sto usando un Saturn Echo col microfono originale, neanche microfono amplificato. E va bene così, quindi abbiamo Tino. Abbiamo doppiamente la conferma. Vai. Vabbè, mi sono bevuto un bel bicchierozzo di birra, tanto non ho neanche mangiato stasera. Non viene gara. No, neanche io ho cenato, Eravamo a casa di amici, abbiamo fatto della pasta al forno con i carciofi e un bel aperitivo preparato di salsiccia, formaggio e guanciale e poi una rosita di quelle dei faticanti, ma tutto tranquillo. Me ne sono andato perché me ne dovevo andare, perché a me non piace stare più di tanto. Bello, sono ancora lì cenando. No, aiuto. Vamos a casa. Vai Gianni. Gappa, aspetta che faccio un treno io. Devo comprare un avvitatore, Gavi. Ce ne sono secondo te da Bricomen, a poco prezzo però, senza essere esagerati. Sì, invece di guardare da Bricomen, guarda la Lidl che è meglio. Ma la Lidl ogni tanto rimettono. Guarda che forse ci sono, un avvitatore a batteria o trappa non ti serve? No, un avvitatore a batterie. Guardalo da cosa la Lidl. Sì, c'era da poco, era veniva 29 euro, però era quello ad impulsi, quello bello, quello ad impulsi. Più lo paghi 29 euro, che mi sa viene non era completo di batteria, ma la batteria quella da 20 volt 2 ampere la paghi 20 euro con 50 euro 55 euro, però sì, quella di impulsi è bello, quella di impulsi non lo prendo una volta, intanto per come a te non ti serve per uso intensivo va benissimo alla grande. Io non ce l'ho quello della Lidl, però lo uso qua, poi ne ho un altro da 14 volt, la batteria ce l'ho 18 anni, quello, con l'avvitatore ce l'ho 18 anni, della Black & Decker. E poi l'ho preso un anno fa alla Lidl, ma c'era di nuovo, per esempio a Natale sono andato a fare dei regali da prendere, li ho presi alla Lidl lì e c'era anche l'avvitatore, quello al mio, veniva, non mi ricordo se 19 o 29, lo sai, più era 25 euro di batterie col caricabatterie, dai una cinquantina di euro, però non da Brickoman, cosa prendi? Da Brickoman non prendi nulla, c'è Makita, poi ci sono, boh, non viene, più che altro dovresti guardare se capiti a Porto Torres che hanno i Black & Decker da vabbè, comunque tipo un Brico Girl mi pare. O altrimenti vai da Mauris li ho visti, vai da Mauris dove c'è l'Eurospin e di lì trovi qualcosa da prezzo, di lì trovi qualcosa da prezzo, a spendere intorno ai 39 euro, 30 euro, di lì li trovi. Ti fai conti, 29 più altri 25 di batterie, intorno ai 55-60 euro. Io ho prezzato intorno agli 80 euro addirittura, ma uno un po' più professionale, era Dewalt, costa molto di più. Vai da Mauris, sì, che già ti vanno, dai, per quello che lo usiamo noi, per come lo uso io qua a casa, perché ricordo per uso domestico, va bene, è roba da prezzo, io non le compro roba buona per casa, tanto cosa devo fare, un buco, due buchi, tre buchi, dei buchi, a voglia. Il tassellatore, io ho un Black & Decker qua, che l'ho prestato, mi hanno rovinato il tassellatore, punto. Poi l'ho aperto, ho visto cosa aveva e più o meno l'ho ripristinato. Però io avrei provato ad andare di lì da Mauris, proprio detto così, perché li ho visti l'altra volta, li ho visti da Mauris, sono rossi e vanno bene a futitini. Vabbè, adesso vediamo, non fa un giro. Dai, vai lì che lo trovi sicuramente, intanto sono come tu entri, poi trovi tutti i detersivi, la corsia a sinistra dei detersivi, di lì c'è tutta la roba per le auto, c'è tutta la roba per il fai da te, di lì lo trovi. Bene, sì, da... controllo, perché poi vabbè, ce ne sono anche cosa, come si chiama, Bricocina, giustamente ci sono quelli meno importanti e quelli più importanti, ma era per sapere poco quanto dovevano costare. Guarda, se non mi ricordo male dovrebbe essere intorno ai 29 euro quello di Mauris, ha la batteria, mi sembra 18 volt. Sì, 18 volt si vuole almeno, io ne avevo uno della Black & Decker, mi è durato anni, ho fatto forse 4-5 verande, ma verande importanti, verande grandi, tipo 70-80 metri quadri, tutte a vittime, cioè tu pensa che ogni trave piazzavo due vitti, quindi per tutte le trave che c'erano e per tutte le lamellari e per tutte le secche. Ma vanno bene, non a voi si fissano con questa roba, macchita, cosa, già è buona, è roba ottima, però se la usi, diciamo, se ne fai utilizzo intensivo, ma se per esempio devi fare 30 buchi, 30 cose, oppure lo devi usare saltuariamente vanno bene anche questi qua da presto, ma io la penso così. Poi per lavoro, cioè quelli, per lavoro abbiamo quelli buoni, quelli Dewey, quelli Giamani, e sono quelli buoni, ma io per lo stesso lo sai come la penso, no, non è compro roba buona per casa, no, intanto qua quando vuoto chi si bocca i zappoli che devo vanno e prendo e basta, finito, poi rimane fermo. E se va male, dopo la garanzia ci ho buttato 30 euro, ma la garanzia dura 2 anni, quindi penso che 30 euro in 2 anni si sia pagato e strapagato. È vero, è vero. Aiuto, vai avanti Antonio. Ne ho comprato uno, io pensavo, ma lo prendo, adesso da un po' che non ne vedo neanche lì. Quest'estate ne ho già comprato uno da MD, ho detto ma vediamo come funziona, va, cata chissà cosa, ma ottimo come strappano, cioè come abitatore, veramente buono, lo sto usando anche, l'ho usato tutta l'estate anche per attaccare qualcosa dei palchi, molto molto mettiamo viti, i palchetti quelli piccoli, bassi, li avvitiamo molte volte, ottimo proprio, va veramente bene, bene bene, la batteria da 18 volt, adesso da un po' che non ne vedo, di quei trapani, se ne vedo un altro me ne compro uno di scorta, cavolo, una bomba vabbè, dai, lo cercherò, Gianni. Sul 40. Prova di nuovo. Ehi, gappa, ero a chi va più lascia la radio al sur. Stavo dicendo da Euromax, mi sembra che si chiama quell'altro negozio tipo Brickoman, che c'ha un bel di roba, la voi non lo so così, è cinese o non è cinese. Che c'è un tipo che fa le pubblicità, che esce una dipa, rido con un insurro, visto di una fantasma. Sopra il capannone da metti. Sopra? Di fronte, dai, sopra dove c'è la Brico come vecchio, ci sono quei due cinesi, dove sono tutte le bandierine. Ma lì non c'è Brico Verde. No, sopra, dove c'è, per andare allo spaccio carni, di lì, dove c'era prima Bricome, sopra dove c'era prima Bricome. Vabbè, ci provo. E vai lì che già li trovi da prezzo. Andare meglio qui se a voce di chi ti vuole. Sì, e vabbè, dipende come la tratti anche la cosa, Cioè quanto è grande? No, dipende come la usi la cosa. Dipende da come la usi, logicamente se devi entrare tasselli lunghi 20-30 cm, dopo un paio d'ore devi farlo riposare, o se lo metti, logicamente sott'acqua non lo puoi usare, non lo puoi prendere a colpi di martello, com'è. Però vanno bene, e logicamente bisogna trattarlo, come vedi che magari scalda ti blocchi un attimino. Purtroppo è così. Sono però attrezzature, io con quello da 14 volte ho fatto anche lavori qua a casa, l'ho fatto, eppure non mi è mai mollato a piedi. L'unica cosa che si è rotta è il caricabatterie, che gliene ho preso un altro e gliel'ho adattato. Ma si è rotto per uno sbaglio mio. Si è rotto per uno sbaglio mio perché mi è caduto a terra e mi si è danneggiato, poi dentro ho guardato, era tutto un casino, tutto fuso, tutto fatto. Tutto fatto con quella resina e non l'ho potuto aggiustare, ma è solo perché mi è caduto in terra, altrimenti quel caricabatterie sarebbe sempre andato, ed è un 14 volt, 18 volt già vanno bene, ma quello che devo fare io qua a casa lo faccio anche con 14, non c'è bisogno del 18 volt. No, vabbè, giusto per dire, 18 volt è un pochino più performante, più forte, eh. Sì, d'accordo, ma per l'utilità, per l'utilizzo che ne faccio io qua a casa mi va bene anche, anche quello d'acqua turca, no, per me. Intanto inutile il biglio più umano, sì, c'ho il trapano, c'ho l'avvitatore a 18 volt, bello, e vabbè, piazzì. No, no, no. Poi, lo sai cos'è? Che lo vedono da 14 e non te ne chiedono in prestito. Allora se si rompa così. Bravo, bravo, bravo. No, no, ma da 14 non ce la fai, vabbè, lascialo lì. Lascialo lì, non è toccare. Non è toccare. Che da poco mi ho comprato questo spugliatore e pure una motosega. Motosega impricciata. E me l'ha indurrata in fasciata. E me l'ha giubilata nuova. E non gli ho detto neanche niente, cioè gli ho detto che bastava dirmelo, che no, ma era a posto, e vabbè, era a posto, avanti, era pure. Vai Gian. Allora, c'è scritto che Euromax Predanieda 1, Predanieda strada numero 1, Sassari a fianco a City. Qual è City, boh? In City, oh sì, già ho capito dove, già lo so dove. Dove c'è sempre, sempre il posto di blocco. E i KK, oppure anche alla Lidl c'erano l'altra volta quei trappani ricaricabili così. Sì, ma a trovarli, non è sempre che li mettono. E poi è sempre, dipende che tipo di lavoro devi fare, se no attacchi un trappano a correnti e fai brima. Troppo veloce, gira già, non va bene, ci vuole un qualcosa di così, a batterie, secondo che vite devi mettere. Lì vai la punta d'onda, ci sono dei trapani che pigliano, puoi regolare, la velocità non è regolabile come l'avvitatore, mi segui, e quindi non è che puoi fare il lavoro fatto bene, ci vuole l'avvitatore, il trapano è per fare i buchi, l'avvitatore è proprio per fare, per mettere viti, per fare lavoro infine, dai, vai. No, devo più fare un po' di tassilli per vabbè, tutte le cose del bagno, cioè per la saponetta, questa roba qua, poi un po' di qualche lampadario, qualche plafoniere, questa roba qua, quindi mi serve una cosa, insomma, una cosa un pochino non veloce, col trappano sei, a parte che è veloce, poi più pesante, c'è questo filo in mezzo alle scatole, insomma dai, già mi avete capito. E vabbè, allora devi prendere un trapano a batteria, non un tassellatore. Io ho detto un avvitatore. Un avvitatore, ma non c'ha il martello, però se devi fare i buchi nel muro non fai niente con l'avvitatore. No, un avvitatore serve solo per avvitare, il tassellatore è un'altra cosa. Infatti, se tu devi fare buchi nel muro ti serve un tassellatore, non un avvitatore. I buchi li faccio col trapano. E il trapano non ce l'hai? Sì. Allora ti serve solo l'avvitatore. Se non vuoi fastidio dei fili ti serve il trapano. Cos'è? Cosa? Davvero. Davvero. Boh. Ma se no posso prendere un tassellatore, lo posso usare sia per uno che per l'altro. Esatto. Prima mi fa vedere i fori, poi mi fa vedere i buchi. Si vede che non hai dormito. No, allora, tu hai detto che mi serve un avvitatore perché mi serve per avvitare. E poi tu hai detto che devo fare dei buchi anche in bagno, queste cose qua, ma ero già pronto a farle con il trapano, capito? Però se riuscissi a avere un attrezzo per entrambe le cose, ancora meglio. Sì, ti ho capito. Se ti serve il tassellatore, vieni e te lo do io con lo Black & Decker, se ti serve. Io ho avvitatore, ho quello là, e se vuoi ti prendo anche quello, non ho problemi, te l'ho preso. Se non te ne devi comprare, te l'ho preso, vieni, te l'ho preso. No, devo prenderlo. Perché magari, non lo so, se lo vuoi, se non te ne devi prendere, vieni, te lo prendo, non c'è un problema, già lo sai. Lo so, ma non è roba mia, capito, quindi devo fare un lavoro a una persona e niente. Yes. Io sono contrario se la roba non è per utilizzo intensivo a prendere roba buona. sono proprio contrario. Mentre chi tu si bida la cosa e no, ma io ho quello, e ma alla sfrutti, e no, che cosa devi comprare da fare? Ma io adesso, per dire la verità, ho comprato un martello, un tassellatore. Il tassellatore è molto piccolo, no? Non me ne facevo niente, però il prezzo era allettante, ho preso, un giorno mi serviva a letto. Ho fatto più prestandolo che usandolo io. Quindi l'hai comprato per gli altri, così hai fatto regalo a tutti. Sì, e per giunta anche delle punte, non è che quella paletta, quella a punta, quella perforare rotondo 50 mm, insomma un po' di tutto, Sì, poi magari ti hanno rotto anche le punte e non te le hanno comprate. No, stavo per sparire una punta, ma ho detto, ma shit, quella è la mia. E tu dico per certo, perché non l'ho comprata io, l'ha comprata W. Sì. Cosa vuoi ti dica? Quando la roba serve, cercano di sganfignartela, eh. Pensa tu, a me mi hanno inibitato un cricchetto. Cioè a me, a noi al lavoro ci hanno fatto sparire un cricchetto della Betta, cioè si attaccano un cricchetto Betta che costa 25 euro, ma se adesso, che poi è anche segnato, perché quando il mio titolare mi dà la roba io la segno, no? Ma può essere che gli faccio un intacchetto col anche con la lamellare, con la molettina. Se adesso io dovrei fare un montaggio con questa gente qua e li trovo il cricchetto, io glielo prendo e glielo faccio mangiare. Non gli dici nulla, però fai di tutto per prenderglielo e per fargli capire che ce ne siamo accorti. Guarda, capito. Allora, mi è successa una cosa da poco. Questo giovane, mentre se ne stava andando, mi ha dato una tenaglia, no? Mentre ti te la regalo, te la metti nell'escavatore, così se ti dovesse servire, e tu dici, va bene, grazie. Io, siccome non sono il tipo che uso tenaglie, l'ho lasciata lì nell'escavatore. L'ho lasciata lì senza segnarla, ed era una tenaglia di quelle 22, quelle piccole, neanche di marca, ma una tenaglia del cacchio, così. Vabbè, comunque sia. Cosa è successo? Che quell'escavatore lì l'ha preso un altro operatore, io mi ho preso il Volvo e non ho detto niente che c'era la tenaglia, cioè non ci stavo neanche pensando. Dopo una ventina di giorni l'ho ripreso io e ho detto, ma scusa un attimino, qua c'è una tenaglia, mi ha detto, se l'ha presa, grazie a lui perché dice che era la sua. Momenti? Ho detto, guarda, non me ne frega niente, anzi adesso vado e dico che gliela regalo, perché se no magari pensa che è veramente la sua. Era convinto che era la sua. Sì, vabbè, però se io lascio la roba in pausa a pranzo, no? Se io lascio la roba in pausa a pranzo e poi arriva uno e me la prende, e chissà, non è roba tua, chissà è roba mia. Quindi le mani sono lunghe. Però lo troverò. Ho trovato roba a distanza di 5 anni, una cinghia, una fascia, l'ho trovata a distanza di 5 anni e gliel'ho presa. Ho detto, guarda qui sto prendendo la cinghia mia. Te la dovevo sempre là e non ti ho più visto. E beh, capita, che infatti non ti vediamo mai. Però non sai, quando ti scappa la testa, vabbè, comunque me la sto prendendo, l'ho ritrovata, 5 anni erati. Comunque così, riprendo subito. Vai Antu. Cappa, pure io sono così, vabbè che uso tutta la roba mia, no, quindi non chiedo nulla agli altri quasi. Ma se uno mi tocca una cosa, prima mi ricordo chi l'ha presa, secondo comincio a incazzarmi, ma mi incazzo di brutto. Cata la salute al mio collega, non si è permesso di cudirmi la cosa a terra. Oh, mia voce! Ma come si chiama? Il taglierino a terra. Oh, è cominciato a incazzarmi, ho cominciato. Io sono micidiale, io mi incazzo un bel. Di poco non li metto la mano addosso. Vabbè. Allora, 30 carciofi, 10 euro, a chi vi interessa? Cosa? 30 carciofi, 10 euro. Che li vendi tu? No, io non ne vendo di quelle cose. Io vendo altro. Ah, sì. Già sono buoni proprio a carciofi. E invece gli asparagi chi che ne procura? Che sono un po' senza mangiarne. Gabriele, basta, mamma mia, ogni casino. Non ti ho capito, ti cosa hai detto? Gabriele, fai da bravo, Gabriele. Bravo, Gabriele. Non fai dare il gettino, Gabriele. Qua ultimamente a me sta combinando tutti i colori, mi musicheggia, mi fate, non ne posso più. E ancora è nuda. Ah, così è, vediamo che si calma, se no non leggo. Ragazzi, Gianni, dormito di sì. No, Tino, comunque vi appasco di cacciuti sono, già li ho visti. Allora c'era mia cugina, mi ho fatto comprare io le mietole, costavano 1 euro un mazzetto, mi ha fatto prendere 2 mazzetti, mi ha giovato i burzini e erano in tenere, uno spettacolo era. C'erano anche gli asparagi, quelli erano per i coltivati, ma lì sono i piatti. Le mietole magari sì, perché con un po' di olio crudo dopo già sono buoni. E niente. Sentiamo, ciao. Ciao già, buonanotte, buona. Dai. Buona nottata. Ce la riascoltiamo domani. Credo domani sera di entrare a farmi la chiacchierata. Ciao Gianni, buonanotte a te QRA, a domani. Ciao a tutti. E va bene. Mi stavo sbrogliando un filo di. Sento un disastro, va giù, bello, non riesco mai se c'è una cosa e mi si incasino un'altra. Vabbè. C'ho una pentola attaccata col trasformatore. Devo accorciare il filo che mi si inguaia sempre. Io invece sono molto perché devo preparare la roba per i cani, mangiare, la roba per me, per domani, e tante cose belle, dai. Quindi devo per forza mollare. Vi saluto e niente, sentiamo i prossimi. Riprendi Gabi, buonanotte. Sì, anche io prendo, adesso chiudo e ciccio. E vado proprio a coricarmi, che domani la sveglia è presto e vediamo un pochino cosa riusciamo a combinare nella giornata di domani. Ciao Tino, ciao Antonio e saluti al ragazzino lì. Fai da bravo, ascolta babbo e tutte quante queste cose di raccomandazione. Oioia, Antu, dassero vaghe minori, tu dassero vaghe minori. Tienilo in allegria. Di nuovo, buonanotte a tutti, chiudo e riprendo. Ciao Tino, buon lavoro per domani. E ciao Antonio, buona giornata a te. Chiudo le trasmissioni, ciao. Ciao a tutti. Adesso pure io, da, me ne andrò con... Cerco di farlo dormire questo demonio. Che mi smontende in mezzo a casa, mi smontende. Ok. Buonanotte a tutti. A te, a buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte.